La donna medico. La vita stessa ci dà la prova che tutte le obiezioni dell'uomo borghese per chiudere alla donna la via delle professioni liberali non valgono a impedire il suo cammino. In America vi sono già 3.000 medichesse, le quali lavorano negli ospedali, nelle università, dirigono case di salute e cliniche. Nello stato di New York si fa adesso un'agitazione perché una legge particolare rende obbligatoria la nomina di medichesse a direttrici dei manicomi femminili. Su 38 stati, 33 sono favorevoli e solo 5 contrari. Nei manicomi femminili si hanno già in servizio più di 20 medichesse. In Russia esercitano più di 600 medichesse. Sono medici negli ospedali, assistenti nei laboratori scientifici, medici condotti, hanno vastissima pratica privata fra le donne, i bambini e le bambine, presiedono società di medici come a Mosca. E gli uomini medici, dopo una guerra accanita fatta alle loro concorrenti, hanno finito per accettare il fatto compiuto. Poiché si possono schiacciare una, due, tre pioniere, ma non le si schiacciano più quando diventano centinaia. Il numero si fa forza, per lottare con esso più non bastano semplici artifici maligni. In Inghilterra, dove solo 10 anni fa le prime giovani che coraggiosamente si accinsero a frequentare la scuola di medicina a Edimburgo vennero cacciate da quegli studenti, ora la donna medico in così breve tempo ha conquistata la stima generale e il numero delle medichesse vi giunge a 73. Nello scorso anno fu aperto a Londra un ospedale di donne, diretto da sole donne. Le medichesse hanno trionfato e ora, in tutte le principali città d'Inghilterra, Scozia e Irlanda, esistono speciali scuole di medicina destinate esclusivamente alle giovinette. Alla Facoltà di Medicina di Boston sono attualmente iscritti ben 478 studenti in medicina, dei quali più della metà sono donne. A Parigi le medichesse sono già tanto numerose che dovettero ammetterle nei concorsi ai posti di assistenza pubblica. E per quanto abbiano fatto i medici uomini per impedire alle medichesse l'internato negli ospedali, eppure le signorine Clamp ed Edwards, avendo esse vinto nel concorso di un anno fa, furono finalmente ammesse come interne, cioè come medici aiuti che possono fare carriera ospedaliera. A Parigi nel 1890 vennero nominate negli ospedali 11 donne come assistenti medici esterni e neppure una come interna, perché i giudici dei concorrenti, sempre uomini, per quanto la donna possa avere meriti uguali, preferiscono l'uomo medico. All'Università di Ginevra sono iscritte quasi 100 studentesse e l'anno scorso il premio scientifico di Davy fu conferito alla signorina Stefanovskaya, studente in scienze naturali. Vedendo che la donna in certi paesi come in America e in Russia è riuscita così presto a tener testa agli uomini medici, sembrerebbero potersene dedurre che la via dell'esercizio medico sia stata per la donna facile e piana. Eppure, quali e quanti furono gli ostacoli opposti alla donna medico dai suoi colleghi? Ce lo possono narrare le prime medichesse. Quanti stenti, quante lotte. Dirò senza timore del ridicolo anche quante lacrime furono procurate alle donne che abbracciarono una carriera così utile alla società. A Edimburgo, l'ho già detto, gli studenti cacciarono le studentesse. A Londra i pastori predicarono dai pulpiti che con la donna medico comincerà il regno di Satana sulla terra. In Russia la stessa imperatrice attuale non volle che la donna diventasse medichessa. I consigli ospedalieri ovunque chiudevano loro le porte. Il pubblico non si fidava della capacità femminile. Pretesti per scartare la donna medico da tutti gli uffici sanitari se ne inventarono di tutti i colori, secondo la persona, la località e il tempo. Preciso come qui a Milano, quando 3 anni fa si presentò una donna medico al nostro ospedale maggiore, essa fu subito colpita dall'ostracismo. Per quale ragione? Pare per la tutela del buon costume. Insomma, le prime mediche hanno avuto qualche cosa di eroico nella lotta impari coi pregiudizi e soprattutto coi loro colleghi. E se hanno vinto, bisogna pur riconoscere, e non mi si sospetterà certo di voler adulare il mio sesso dopo tutto ciò che dissi prima, che per attività ed energia il sesso debole si è mostrato più forte del sesso forte. La donna oramai si è meritata il brevetto di capacità. La donna avvocato. Chi vince Ha ragione. E mi si dirà che per la donna medico passi, ma la donna avvocato questa fa arricciare il naso in modo sdegnoso o canzonatorio. I consigli dell'ordine degli avvocati, le corti di Cassazione impediranno alle donne l'esercizio dell'avvocatura finché sono poche. Quando in Europa diventeranno legione, come le medichesse, allora non si oserà più negare alla donna un diritto conquistato, avendo anch'ella percorso studi regolari e ottenuto il suo diploma, come ogni avvocato dell'altro sesso. La Poet a Torino, la Poplin a Bruxelles si sentirono respinte coi pretesti derisori della gravidanza, dell'allattamento, del berretto che non si adatta all'acconciatura femminile, della toga che disconviene alla tournure. E che cosa direbbero ora che questa è passata di moda? Pretesti che non riescono neppure a dissimulare la loro vacuità e tradiscono troppo l'artificio e lo sforzo impiegati alla difesa del monopolio della casta maschile. La letterata. E le donne letterate? Queste per affrontare il monopolio dell'uomo è almeno necessario che si camuffino il più possibile da maschio e facciano passare la loro mercanzia, anche se eccellente, con l'etichetta di uno pseudonimo maschile. La madre. Ma ora mi si dirà, e la madre? Voi avete tanto parlato della donna operaia, della donna insegnante, commerciante, professionista, e avete dimenticato la donna madre? No. Non l'ho dimenticata, anzi, l'ho lasciata per ultima appunto perché è la più importante. Imperocché, se il lavoro della donna riguarda specialmente l'interesse dell'individuo, la maternità abbraccia l'interesse della specie umana, l'interesse e l'avvenire dell'umanità. Se non che, è da osservare che per svariate cagioni fisiologiche e sociali a moltissime donne la maternità è negata per tutta la vita. Altre, pur godendo o soffrendo la maternità fisica, non sanno essere educatrici perché anche questa, con la civiltà moderna, è diventata una vocazione speciale, come quella che ci porta a un'arte o professione qualsiasi. D'altronde, il periodo attivo della maternità e dell'educazione dei figli non è che un breve periodo della vita, anche senza limitarci alla società borghese, dove il malthusianismo pratico limita quasi sempre a 2 o 3 al più il numero dei figli, è certo che in generale a 40 anni, tutt'al più, quando cioè per l'uomo e anche per la donna professionista la vita, la carriera sono nel loro fiore e tuttora suscettibili di grande progresso, la donna esclusivamente madre è morta alla sua funzione, incrocia le braccia sul seno e, a così dire, sopravvive a se stessa, inutile e sovente di peso a sé e agli altri. Quante ne conobbi, e non delle peggiori, anzi di quelle che meno trovano sollievo nel pettegolezzo frivolo e nell'ozio, che giunte a quell'età considerano la loro vita come una grande delusione, piangono in segreto del vuoto che si fa loro dentro ed attorno e invocano la morte, la grande liberatrice. Certo, tutto ciò subirà profonde modificazioni e non ancora precisabili quando l'evoluzione della famiglia, che fa rapidamente il suo cammino, dissolvendo gli antichi rapporti domestici basati sul dominio maschile e sul tipo dei focolari isolati, come ne dà indizio l'aumento continuo dei divorzi, delle separazioni, delle unioni libere, avrà preparato una forma di famiglia più elevata, fondata sulla spontaneità e sull'eguaglianza. È ben possibile che allora una gran parte della tutela della prole venga devoluta alla collettività e si stabilisca anche fra maternità ed educazione una separazione più spiccata, in base al principio della divisione del lavoro e della separazione delle funzioni, che è il carattere dell'epoca moderna ed è, al tempo stesso, causa ed effetto di ogni progresso civile. Ma per non precorrere i tempi, voglio limitarmi a considerare la condizione della donna madre nell'attuale periodo di transizione. La donna maritata, credendo di aver raggiunto col matrimonio lo scopo della sua vita, di essersi conquistata una posizione sociale, è l'essere il più degno di commiserazione. Ella, col suo nome, perde la sua personalità. La sua vita rimane assorbita del tutto dal marito e gli si associa nella lotta per l'esistenza. Ella non è padrona dei suoi averi come non è padrona dei suoi figli. L'inferiorità della posizione della donna in famiglia può venire compensata dall'affetto e dall'armonia psichica di due esseri uniti con vincolo indissolubile e per fortuna queste unioni non sono rare, ma nella maggior parte dei casi col matrimonio comincia la via crucis della sua esistenza di lunghe e umilianti sofferenze. Come ho già detto, il matrimonio nella gran maggioranza dei casi è una speculazione. Gli uomini in alto sposano la dote, in basso prendono moglie per avere una serva. Ben pochi pensano che verranno dei figli o ci pensano come ad una sventura e non si preparano affatto ai doveri e ai carichi che impone la vera educazione dei figli. E quando i figli ci sono, che cosa avviene? Le madri non sono che madri a metà. Nell'alta società si prende la balia in casa perché la signora ha da conservare la sua bellezza, deve fare e ricevere visite, frequentare teatri e soirée. Il bambino è un incomodo che si manda all'angolo più remoto dell'appartamento. Nella borghesia che lavora, la moglie aiuta il marito nel lavoro e il neonato si manda a balia in campagna. Nel proletariato, le condizioni misere della vita obbligano anche là la madre a mandare lontano il bambino perché la donna deve portare anch'ella la sua quota di misero ménage della loro esistenza. Oh, sì, la maternità sarebbe uno dei compiti più elevati della donna nella vita sociale, dei più soddisfacenti le sue tendenze psichiche, dei più confacenti allo sviluppo del suo organismo. Ma l'educazione e l'istruzione che si danno generalmente alle donne sono forse dirette a prepararla ad adempiere il più grande dei suoi doveri? La ragazza, in tutte le classi della società, ignora tutto ed è guidata dall'ignoranza e dai pregiudizi delle antenate e delle comari. Che cosa sanno le ragazze del come nasce, del come cresce e si sviluppa un bambino? Quali nozioni di fisiologia e di igiene ricevono esse per avere un concetto qualunque del come un bambino si alleva fisicamente e moralmente sano. La madre, dunque, per l'ignoranza in cui si tiene la donna, perde ben presto ogni autorità morale sul figlio. Un ragazzo della ginnasiale comincia a saperne più di sua madre e andando avanti che cosa ne nasce? L'armonia morale, l'unione intellettuale della madre coi figli va sempre scemando. La madre è rispettata, ma il figlio è un ramo che si stacca dall'albero. E la madre, dopo una vita triste, travagliata da sofferenze e da affanni, non ha con sé e per sé neppure l'intima amicizia dei suoi figlioli. Se la donna adempisse i suoi doveri di madre, formando l'intelligenza e il cuore dei figli, allora anche la sua inferiorità in famiglia di fronte al padre sarebbe di gran lunga scemata, anzi, forse del tutto scomparsa, poiché anche il marito, padre dei figli, le porterebbe quella stima e quel rispetto che ora sono così rari. Il marito vede nella moglie una persona che gli mantiene, una semplice ménagère nella borghesia, oggetto di lusso nell'alta società e donna di servizio nelle classi povere. La missione della moglie e della madre è così poco apprezzata come un lavoro di gran fatica e responsabilità che la donna dura tutte le fatiche del mondo, quando all'ultimo del mese deve ottenere dal marito il tanto per le spese giornaliere per l'andamento della casa. Non dico poi quando si tratta delle sue spese personali. Il conto della sarta in molte famiglie è un casus belli fra marito e moglie, perché il marito non vuole riconoscerle neppure il diritto di vestirsi, per arrabbiarsi poi se la moglie non fa bella figura. La donna che essendo madre e direttrice della casa dovrebbe avere una delle più grate professioni, finisce per essere considerata dal marito come la persona più oziosa di questo mondo, né le si riconosce il diritto di dividere, con eguale autorità, i mezzi di sussistenza da lui procurati fuori di casa. Quasi quasi la donna di servizio che per un dato lavoro riceve il suo mensile fisso si trova finanziariamente in condizioni molto migliori della moglie, la quale non riceve quasi mai un compenso materiale spontaneo dalla sua metà forte. La maternità e l'amministrazione della casa sarebbero una professione assai elevata se la donna vi fosse diversamente preparata e se coteste funzioni venissero considerate dagli uomini mariti come una professione, se non superiore, certo uguale a quella del fare il medico, l'avvocato, la commerciante, la sarta e così via. E se fosse ritenuto che la donna, essendo madre, può ben guadagnarsi con questo solo stato la sua indipendenza materiale, ricevendo dal marito un compenso equivalente al suo lavoro, senza doversi umiliare per una spesa di più o di meno. E qui, finalmente ho terminato. E la morale della favola? È breve. Mi auguro, Per il trionfo della causa del mio sesso, solo un po' meno di intolleranza dagli uomini e un po' più di solidarietà fra le donne. Fine.